Tra le righe. Letture, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Benvenuti a Tra le righe. Riprendiamo il nostro viaggiare tra le parole con un libro particolare. Un libro dalla forza narrativa reale, come sono le testimonianze che contiene. Le voci del mal d'amore, lettere di amori sofferti e disperati, pubblicato dalla Red Edizioni. Non si tratta di pathos letterario, non si tratta di donne che non si rassegnano per la fine di una storia, sarebbe banale, ci pensano poeti e cantanti a raccontare questo, ma si tratta di storie di dipendenza affettiva, raccolte dallo psicologo Roberto Cavaliere, attraverso il sito che cura da tempo, maldamore.it. Il dottor Cavaliere è mio graditissimo ospite per cercare di stigmatizzare la dipendenza affettiva. Allora, le voci del mal d'amore, lettere di amori sofferte e disperati, editore Red, sono delle testimonianze vere pervenute sul sito creato dal dottor Cavaliere, maldamore.it. Sono storie vere che si confrontano sul disagio della dipendenza affettiva. Dottor Cavaliere, che cos'è la dipendenza affettiva? Allora, innanzitutto la dipendenza affettiva ha un'origine abbastanza recente. Nasce sull'onda del successo negli anni 70 di un libro della psicologa americana Robin Norwood, Donne che amano troppo. Però anche se già nel 45 un altro psicanalista aveva introdotto il termine di amore dipendenti ad indicare delle persone che necessitano dell'amore come altri necessitano del cibo e della droga. Che cos'è la dipendenza affettiva? Nella dipendenza affettiva l'amore verso l'altro presenta diverse caratteristiche di qualsiasi altra forma di dipendenza, anche se c'è una differenza sostanziale. Mentre nelle altre dipendenze la dipendenza è da una sostanza, da una situazione o quant'altro, nella dipendenza affettiva si dipende da una persona. È normale che in qualsiasi tipo di relazione, soprattutto all'inizio, nella fase di innamoramento, sia un po' sempre dipendente dall'altro e questa dipendenza continua per tutta la vita affettiva e relazionale. Nella dipendenza affettiva però tutto ciò è portato all'estremo, all'eccesso. Il dipendente affettivo dedica completamente tutto se stesso all'altro, di perseguire esclusivamente il benessere dell'altro e non il proprio, come dovrebbe essere in una relazione sana. Il primo elemento che manca nella dipendenza affettiva è appunto la reciprocità. L'amore, si potrebbe dire, l'amore e conseguentemente il benessere ad esso legato è a senso unico. Nella dipendenza affettiva l'altro diventa lo scopo della propria esistenza. Non si esiste se non in relazione all'altro. Qualsiasi problematica personale eccetera passa in secondo ordine, l'essenziale è che sia funzionale al benessere dell'altro. Se vogliamo entrare proprio nella sintomatologia specifica, i sintomi principali, e l'elenco è ben lungi dall'essere esaustivi, sono i seguenti: l'ossessione dell'altro, che si riassume il primo pensiero la mattina e l'ultimo la sera, la paura di perdere l'amore dell'altro, la paura dell'abbandono e della separazione, paura che a volte è tale che basta semplicemente che l'altro ritardi, che si allontani per un qualsiasi motivo perché questa paura subentri. La paura di mostrarsi per quello che si è, perché una delle caratteristiche del dipendente affettivo è quella là di avere una bassa autostima di se stesso. Guai se si rivelasse all'altro per quello che si è, si ha paura che l'altro non accetterebbe la propria vera essenza, per cui si dà anche un'immagine distorta di se stesso. Questo comporta un senso di inferiorità nei confronti del partner. Inoltre nella dipendenza affettiva la gelosia e la possessività è portata all'estremo. Il dipendente affettivo è una persona estremamente gelosa, e la sua gelosia arriva ad essere talvolta ossessiva. E potremmo riassumere tutta questa sintomatologia in una parola: paura. Il dipendente affettivo è una persona che ha paura, una paura ossessiva e fobica di perdere la persona amata. Le interviste di Tra le righe. Lei ha parlato del fatto che ha citato benissimo il fatto che la persona che soffre di dipendenza affettiva ha una bassa autostima e quindi sono persone fragili, no, dal punto di vista psicologico, ed è quindi difficoltoso per loro prendere consapevolezza di avere questo disagio, no? Ma cos'è che scatta? Quando è che poi riescono a capire o come fanno a capire che c'è qualcosa di, tra virgolette, malato nel loro sentire, nel loro modo di vivere l'amore? Ecco, lei sente un aspetto molto importante. Per uscire da una dipendenza affettiva, la prima fase è la consapevolezza. Spesso il dipendente affettivo non ha consapevolezza di esserne affetto. Interpreta il proprio modo di amare come un modo di amare forse eccessivo, ma sano e legittimo. Allora il primo elemento è prendere consapevolezza. Nel momento in cui io prendo consapevolezza che invece non è una maniera sana di amare, ma è patologica, posso rendermi conto delle dinamiche che si sono dietro. Nel prendere consapevolezza successivamente, ripeto, delle dinamiche, si prende consapevolezza della propria autostima, del sentire di valere poco. E quel poco che si vale solo in relazione con l'altro. La propria autostima deve essere alimentata dal riconoscimento dell'altro. Dove affonda tutto questo? Com'è che una persona si ritrova con bassa autostima? Qua ci rifacciamo ai copioni della nostra infanzia. È normale che un bambino o una bambina che è stata poco amata dai propri genitori sarà un adulto che si sentirà poco amato e di valere poco e cercherà nell'altro quel bisogno di colmare il proprio vuoto affettivo che si porta dietro dall'infanzia. Però purtroppo, come io amo ripetere sul sito, nei seminari, in terapia, andando alla ricerca di ciò che ci è mancato, l'affetto, finiamo col trovare ciò che ci manca ancora. Sempre affetto. C'è una sorta di quella che i psicanalisti chiamano coazione a ripetere. Tentiamo a ripetere lo stesso copione. Genitori anaffettivi forse da piccoli, partner anaffettivi da adulti. Però, come dice lei, si può uscire da questo circolo vizioso, no? Con un percorso psicologico adeguato. Le testimonianze che sono in questo libro che lei ha curato sono anche positive alla fine, cioè i lettori possono riscontrare una nota di speranza, no? Sono quasi tutte risolte. Esatto, la nota di speranza c'è, è difficile uscirne, ma le storie che ho sintetizzato nel libro sono le storie che hanno avuto un lieto fine. Ma il lieto fine delle storie dove passa? Non attraverso il trovare l'amore sano, la persona sana, c'è un passaggio intermedio che è fondamentale prima di trovare la persona giusta o l'amore sano, è quello di amare se stessi. Solo nel momento in cui si impara ad amare se stessi, si è pronti ad amare in maniera sana qualcun altro. E le testimonianze del libro attestano questo passaggio, che potremmo riassumere in questa triade: consapevolezza della propria dipendenza, consapevolezza dei copioni familiari passati che si hanno portato alla propria dipendenza, passaggio attraverso l'amare se stessi, che è un percorso che detto a parole potrebbe sembrare semplice, ma richiede tutto un percorso personale, e poi si approda all'amore sano, all'amore reciproco verso l'altro. Le interviste di Tra le righe. Lei ha parlato di bambino o bambina. Che incidenza c'è nella popolazione? Sembrerebbe un disagio quasi ad appannaggio esclusivo delle donne? O ci sono anche degli uomini che soffrono di dipendenza affettiva? Diciamo che la problematica è soprattutto femminile, ma questo perché? Perché le donne danno più spazio all'affettività in generale, per cui la dimensione affettiva per la donna, anche per una differenza di identità di genere, è sempre importante, anche nonostante gli ultimi progressi sociali e culturali. E anche perché la bambina viene educata fin da piccola, anche come mentalità, ad essere la persona che deve dare amore, che deve dare di più all'interno di una relazione. Allora anche come status mentale e culturale, è come se la dipendenza affettiva al femminile è più plausibile, mentre una dipendenza affettiva al maschile è poco virile. Allora spesso questa mancanza di riconoscimento di virilità alla dipendenza affettiva al maschile comporta che gli uomini spesso non la vogliono riconoscere o non se ne rendano conto. E in più c'è da dire anche un'altra cosa: la dipendenza affettiva al femminile viene più espressa attraverso il dolore, la capacità di non superare la fine di un amore, di una relazione, o lo stare all'interno di una relazione malata. Mentre la dipendenza affettiva al maschile è più agita, che in tempo per agita, si trasforma più in azione. Vediamo lo stalker. Lo stalker che cos'è? Chi è se non un dipendente affettivo che la propria dipendenza la trasforma molto sul piano di un comportamento ossessivo nei confronti della persona amata? Quindi la dipendenza affettiva per quanto riguarda negli uomini può essere allora una delle cause, lei ci sta dicendo una cosa importantissima, perché può essere una delle cause dell'atteggiamento ossessivo che trasforma l'uomo in stalker, e purtroppo la cronaca è piena di omicidi, no? di uomini che non accettano il lutto della fine di una storia, di essere lasciati. Perfetto, lei accentua un aspetto molto importante: la dipendenza affettiva al maschile è pericolosa, proprio perché il più delle volte si trasforma nello stalking. Bene, io se fosse riconosciuta prima si potrebbero evitare tanti comportamenti estremi, però il maschile difficilmente la ammette e la riconosce, sempre per quel discorso che è poco virile. Ma allora, riconosce una dipendenza affettiva maschile. Mi permetto una domanda: perché quando ci sono questi fatti di cronaca si sente sempre dai familiari, no, delle vittime, che loro hanno fatto delle denunce che ci sono e sono stati sempre inascoltati? Cioè c'è anche da parte della giustizia uno sminuire, al di là della legge che è stata fatta sullo stalking, ma c'è anche uno sminuire, cioè se non si arriva al gesto efferato non si può agire contro una persona che commette stalking. Ecco, qua diciamo la giustizia perché sottovaluta? Questo probabilmente per due ordini di fattori. Probabilmente perché non ci si rende conto di certe dinamiche psicologiche che c'è dietro lo stalking, e poi secondo me anche per una difficoltà oggettiva di procedurale di identificare esattamente quali sono dei veri e propri comportamenti di stalking. Spesso si dice, vabbè, è la normale ossessione maschile verso la persona che rifiuta il proprio amore, ed è difficile prevedere se questa semplice ossessione poi si trasformi in un gesto estremo vero e proprio. Fare prevenzione, mi rendo conto, non è facile in questo senso. La prevenzione forse probabilmente andrebbe fatta in fase di separazione dalla donna stessa, conoscendo bene il proprio uomo, di quale potrebbe essere l'evoluzione della cosa stessa. Ma anche qui non è che sia facilmente prevedibile. A volte persone che possono sembrare chissà quanto ossessivo, non hanno un comportamento un comportamento estremo. Invece la classica persona mite, quello lì su cui nessuno avrebbe detto neanche mezza parola, si rivela il peggiore degli assassini. Perché la neuropsichiatria non ha ancora riconosciuto la dipendenza affettiva come disagio? Insomma. Perché la si riconduce o con una forma di disagio psicologico e non patologia, oppure come sintomo di ben altre patologie. Qua, se vorremmo entrare nel tecnico, ad esempio nel disturbo borderline di personalità, c'è una difficoltà a separarsi. Allora in quel caso la dipendenza affettiva, ecco, è sintomo di un disturbo borderline di personalità, oppure c'è anche il disturbo dipendente di personalità che presenta difficoltà, che presenta una dipendenza nei confronti dell'altro, però anche qui la psichiatria lo riconosce come disturbo ben altra patologia, ma non vuole riconoscere la dipendenza affettiva come disagio psicologico, lo riconduce a un generico e comune mal d'amore. Sì, mal d'amore che comunque nella vita quotidiana poi impedisce alla persona che si trova a vivere questo disagio, questo malessere, impedisce di svolgere una vita tranquilla, che so, lavorare, perché tutto è incentrato sulla sofferenza verso, nei confronti del partner o dell'ex partner, no? Ci sono tutto il mondo è l'altro. Sì, tutto il mondo è l'altro. Lei ha potuto notare se ci sono nelle donne che soffrono di dipendenza affettiva, comunque di giustificare il partner quando c'è un legame morboso, di solito l'altro, il partner può essere una persona anche un po' disinteressata, priva di attenzione. C'è nel mondo femminile questa tendenza a giustificare il partner? E infatti, quella a cui lei accenna si chiama in gergo tecnico distorsione cognitiva. Io adatto il comportamento, non vedo il comportamento dell'altro nella sua realtà di fatto, che è disinteressato a me, che non c'è reciprocità nella relazione, ma lo giustifico per renderlo meno doloroso per me, sicché simpliciter mi giustifico dicendo che l'altro mi ama, solo che quello è il suo modo di amare, non lo dimostra. Sì, perfetto. Senza rendersi conto che invece l'amore è reciprocità, l'amore è fatto anche di gesti e di parole. Però nella mente della dipendenza, della dipendente affettiva, riconoscere già questo significherebbe già prendere consapevolezza. Siccome prendere consapevolezza è doloroso e significa poi mettersi in discussione, è più facile trasformare la realtà secondo il modello della dipendenza affettiva. Io la ringrazio, è stata una conversazione bellissima su un tema molto importante e forse davvero poco diffuso ancora a livello capillare. E ricordo ai nostri utenti ascoltatori il libro che lei ha curato, Le voci del mal d'amore, con un sottotitolo bellissimo, Lettere di amori sofferti e disperati. Edito da Rede. E poi consiglio anche il suo sito maldamore.it per chiunque voglia andare a leggere altre testimonianze e ad addentrarsi appieno su questo argomento. Grazie mille, dottor Cavaliere. Grazie a lei, arrivederci. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.